A vivere. L'idea di dover sognare un bel sogno si era infilata con forza nella mente di Pim. Fu così che scoprì che dovere e piacere non andavano proprio d'accordo e attraversò una lunga serie di notti con sogni senza sogni. Sforzarsi di sognare, o meglio di ricordare i sogni sognati, non solo fu del tutto inutile, ma peggiorò la situazione, perché provocò una lunga serie di notti insonni. Fu allora che Pim si rassegnò. Decise che era stato molto bello tutto quello che aveva sognato, che poteva essere grato e felice per i ricordi meravigliosi che aveva, e che quei ricordi gli avrebbero fatto compagnia, riscaldandogli il cuore negli anni che gli restavano da vivere. Come spesso avviene, le sorprese arrivano quando meno te l'aspetti. Fu così che una notte in cui pioggia, vento e tuoni vibravano forti nell'aria, e i lampi illuminavano il cielo tempestoso, Pim si addormentò un po' impaurito, e si ritrovò in un posto speciale. Era una sera magica. La luna piena illuminava il cielo di Roma, limpido e pieno di stelle. Il suo colpo mancò il bersaglio. Ma Pim non era dispiaciuto, anzi era molto contento, perché lo spettacolo era bellissimo e lui stava partecipando a crearlo. Quando sparava, dal fucile del Luna Park uscivano cilindri sottili che volavano veloci, e alla fine della corsa esplodevano creando una pioggia luminosa e argentata che illuminava il cielo mischiandosi alle stelle. Ancora una volta, dai. Riprova. 10 lire e puoi sparare altri 3 colpi. Se colpisci il palloncino e lo fai scoppiare, questo bell'orsacchiotto è tuo. La ragazza del Luna Park era alta, vestita di rosso, gli sorrideva e aveva i denti bianchissimi. L'invito era rivolto a lui, ma Pim era un bambino e non aveva 10 lire. Allora alzò gli occhi per incontrare quelli di suo padre, sperando di sentirgli dire che andava bene, che poteva sparare altri 3 colpi da quel fucile così grande e pesante. Suo padre lo guardò, sorrise e gli disse, «Va bene. Se proprio quell'orsacchiotto ti piace, prova ancora. Ma prendi bene la mira, mi raccomando». Pim ce la mise tutta. Chiuse un occhio, respirò, con l'altro prese la mira, trattenne il respiro e sparò. Niente al primo colpo. Secondo colpo. Ancora una volta si concentrò, prese la mira e premette il grilletto. Ma il palloncino neanche si mosse. Ultimo colpo. Ancora un respiro, e uno sparo. Anche questa volta il palloncino si salvò, ma il colpo volò lontano, alto nel cielo. Quando esplose, una pioggia luminosa e argentata raggiunse la luna, la circondò e le rimase a lungo intorno, per poi scendere lentamente disperdendosi tra le stelle del cielo. Lo spettacolo era bellissimo. Pim lo osservava a bocca aperta. Guardò suo padre e scoprì che anche lui stava ammirando la scena. «Beh, si sentì dire, il palloncino non l'hai colpito, ma sei arrivato sulla luna ed è stato bellissimo». Si abbracciarono. Negli occhi di suo padre Pim vide la luce delle stelle, e una sensazione di gioia, calda e purissima, invase il suo cuore. «Papà, ti dispiace se non vengo con te?» Ho tanta voglia di volare, e questa sera speciale è esattamente quello che aspettavo per farlo. Certo che non mi dispiace, anzi, sono molto contento per te. Vola felice. E quando arrivi a casa, dai un bacio da parte mia ai nipoti che verranno. Pim guardò suo padre sorpreso, ma poi pensò che quello che gli aveva appena detto non era davvero così strano come la sua mente voleva fargli credere. Quello che sentiva nel suo cuore era difficile da descrivere. C'era gioia per il viaggio che l'aspettava, ma anche un sottile dolore nel lasciare suo padre, soprattutto ora che si erano ritrovati. Si fece coraggio, gli lanciò un bacio riconoscente e prese il volo. Decise di iniziare volteggiando lentamente e a media altezza. Era così tanto che non volava che pensò di fare molta attenzione per capire se era ancora un bravo pilota. Mise alla prova corpo e mente per scoprire se erano ancora in grado di giocare nello spazio, e annusare il vento per trovare la direzione, e la velocità, che gli avrebbero fatto incontrare quello che cercava, la gioia che rendeva possibile l'impossibile. Iniziò respirando piano, e allungò con calma il corpo per stabilire un contatto con l'aria. Quando avvertì la sensazione del fresco sul viso e sulle mani, accelerò il respiro, allungò ogni muscolo e liberò la mente. Una picchiata decisa fece accelerare il battito del suo cuore. Quel balzo lo sintonizzò con l'energia che lo circondava, leggera, fresca, veloce. Volteggiò più in alto e si guardò intorno. A quell'altezza l'aria che respirava attraverso le labbra socchiuse era davvero gelata, ma invece di provocargli irritazione o fastidio, gli trasmetteva una sensazione di chiarezza purissima. La voglia di giocare gli entrò dentro e iniziò a volare sempre più veloce. Un volo fluido e sicuro. Sì, era ancora un gran bravo aviatore. Scoppiò a ridere quando vide che il suo movimento disegnava nel cielo cerchi, stelle, spirali. Simboli dai colori bellissimi, che il cielo accoglieva felice. Scoprì che ridere volando a quella velocità, quando corpo e mente sono il pilota, l'aereo e il motore, non era proprio una buona idea. Perse quota e iniziò una picchiata che non riuscì a controllare. Sentì un pizzicore raggiungere il centro della sua fronte e capì che qualcosa aveva diretto la sua energia verso di lui. Vide una nuvola a forma di cuore illuminata dai raggi del sole con un sorriso stampato nel mezzo. Scoprì che tra lui e la nuvola si era stabilito un contatto che gli aveva fatto riprendere il volo in modo leggero e sicuro. Respirò felice e si guardò intorno. A dargli il bentornato erano in tanti, il fiume che scorreva allegro e veloce, la foca con cui aveva già giocato in altri sogni volanti, gli uccelli che cantavano allegri, i cani distesi al sole a guardia del gregge, i prati fioriti e quell'aria speciale. Salì ancora più in alto e fermò il volo. Assorbì a lungo quel senso di pace e di gioia, e riscoprì che ricevere e dare erano una cosa sola, perché non era solo lui a godere di quell'energia speciale, ma la sua gioia e la sua pace erano assorbite dal tutto che lo circondava. E gli fu chiaro che pace e gioia crescevano in quel movimento del reciproco ricevere e dare. Riprese a volteggiare e mentre eseguiva un volo rovesciato vide la casa. Prese un respiro profondo e si gettò in picchiata col desiderio di abbracciarla. L'emozione era così forte che perse ancora una volta il controllo del volo. Capì troppo tardi che non sarebbe riuscito ad atterrare e sarebbe andato a sbattere sul bel tetto di tegole rosse, provocando un disastro. Cercando di proteggersi e di assorbire il colpo, si mise in posizione fetale raccogliendo gambe e braccia. Ma invece del fragore delle tegole rotte, avvertì sulla pelle un vento tiepido che rallentò la sua caduta. Mentre scendeva lentamente, vide che il tetto si stava aprendo per farlo entrare. Era sano e salvo e non avrebbe provocato alcun danno. L'atterraggio in casa fu a dir poco sorprendente. Ad accogliere il suo corpo c'era un trampolino che occupava l'intera stanza, elastico e tondo, con disegni di cerchi concentrici. Ogni anello aveva un diverso colore. Il più grande era rosso, e poi arancione, giallo, verde, blu, indaco, e viola al centro. Il naso di Pim centrò il viola. Il suo corpo rimbalzò, fece un doppio salto all'indietro con triplo avvitamento e atterrò sul corrimano delle scale, che si trasformò in uno scivolo sistemandolo sulla soffice e accogliente poltrona. Chiuse gli occhi e tirò un grosso respiro di sollievo. Un profumo delizioso di castagne, misto all'aroma di pinoli scottati, e di rosmarino, gli solleticò il naso e gli fece venire l'acquolina in bocca. Un fragoroso e allegro battimani gli fece riaprire gli occhi. Alia e Kim applaudivano sorridendo. Non erano più bambini, ma due bei ragazzi sui 20 anni, parecchio più alti di lui. Si alzò e si strinse a loro in un lungo abbraccio. Ma che bello il vostro abbraccio. Qui ci vuole il castagnaccio. L'ho sfornato già da un'ora. Ha un profumo che innamora. Il commento della casa riempì l'aria, con l'accompagnamento di un'armonica a bocca. Un tavolino basso e rotondo scivolò sul pavimento e si fermò davanti alla poltrona di Pim. Al centro erano sistemati una brocca di cristallo piena d'acqua, tre bicchieri di vetro di Murano, di tonalità leggere tendenti al celeste, e su un piatto di ceramica bianca un bel castagnaccio, decorato con pinoli e aghi di rosmarino. Sui bordi c'erano i piatti e le forchette per gustarlo. Alia e Kim si sedettero su due comode poltrone, sistemate davanti al tavolino, e di fronte alla poltrona di Pim. Amo l'acqua, è molto buona. Ma qui e ora non si intona. Evitiamo un'eresia. Su, mettiamoci energia. Vi consiglio l'armonia, del passito di Pantelleria. All'invito cantato dalla casa seguì una piccola rivoluzione. Dal tavolino sparì la brocca dell'acqua, e al suo posto comparve una piccola bottiglia di vino dal colore giallo dorato con riflessi ambrati. Sparirono anche i bicchieri di Murano, e al loro posto comparvero tre piccoli calici di cristallo, a forma di tulipano con un lungo stelo. Il tappo saltò in aria, un po' di quel vino denso scese lentamente nei bicchieri, e il profumo delle fragranze del Mediterraneo riempì l'aria. Ma la trasformazione davvero straordinaria la fecero Alia e Kim. Ad accogliere Pim erano stati loro ragazzi, ma ora, seduti sulle poltrone, stavano cambiando età, passando gradualmente dai 20 anni, ai 30, ai 40, poi 50, 60, 70, e infine 80. E lì si fermarono. Pim guardava attento i loro lineamenti, che gli ricordarono un po' i suoi, un po' quelli di Cecilia. Vide che nelle diverse età le loro sembianze cambiavano insieme alla loro energia, che conservava gioia e sorriso e accoglieva segni di esperienza e saggezza. Quelle trasformazioni gli fecero venire in mente lo scorrere della sua vita. Tanta vita vissuta, eppure a ripensarla ora, tutto si era svolto in un attimo, un po' come era appena successo ad Alia e Kim. Scoprì con piacere che l'essere anziani non significava affatto spenti, tristi, trasandati o con poca energia. Erano tutti e due bellissimi, folti capelli bianchi, sorridenti, e sprizzavano benessere da tutti i pori. I loro vestiti erano eleganti, di un materiale mai visto prima che emanava una luce azzurrina. «Te l'avevamo promesso, ricordi?» chiese Alia. «Ci volevi conoscere, e allora abbiamo deciso di esaudire il tuo desiderio. Ora sai come saremo quando vivremo su Gaia e tu sarai in cielo». E abbiamo scelto di avere 80 anni, aggiunse Kim, perché ci è giunta voce che il pensiero di essere arrivato vicino al traguardo della vita ti ha fatto fare sogni agitati. Proprio così, disse Pim. So che la fine della vita è inevitabile. Ma l'idea di morire, di lasciare Gaia, tutto quello che conosco così bene, e chi amo, mi fa paura. Forse un sorso di questo passito ci può aiutare a ragionare su questa tua paura, disse Alia. Non è un caso che viene considerato un vino da meditazione. Alla salute. I piccoli bicchieri si toccarono, e si udì il tintinnio del cristallo. Ma che buono, esclamò Pim. Ti dovrei chiamare nonno, ma siccome ora siamo più anziani di te, ti chiamo col tuo nome, disse ridendo Kim. Pim, tu hai usato una parola che non fa parte del vocabolario che usiamo in cielo. Qui, invece di morire o morte, diciamo ritornare a casa, oppure ritorno in cielo. E il perché lo spiega il suono. Morte e morire hanno una vibrazione pesante, che provoca una profonda paura. In verità il ritorno a casa è, per chi ritorna, un evento pieno di gioia. Naturalmente comprendiamo bene i tuoi pensieri e le emozioni che senti, aggiunse Alia. Ci è tutto molto familiare, perché l'abbiamo provato anche noi tante volte. Ora che siamo in cielo, possiamo ricordare sia le nostre vite che i nostri ritorni. Ti possiamo perciò dire che il ritorno è un evento meraviglioso, pieno di amore e di felicità. Non c'è nulla di cui aver paura. C'è la gioia della riunione con chi abbiamo amato ed è tornato in cielo prima di noi, proseguì Kim. E certamente possiamo rimanere vicini alle anime che amiamo e che sono ancora su Gaia. Beh, questo mi sembra proprio strano, disse Pim. La mia mente razionale si sta ribellando. E a noi sembra strano che ti sembri strano, gli rispose Alia. Pensaci. Sei qui con noi ora, e quello che stai vivendo non ti sembra strano. Per vivere questo bellissimo momento è bastato il tuo desiderio. Solo il dubbio e la chiusura del cuore rendono impossibile il contatto. È proprio così, proseguì Kim. Coloro che lascerai su Gaia possono essere raggiunti dalla luce del tuo spirito e potrai riabbracciarli quando sarà il loro turno di tornare in cielo. Ti sarai reso conto che sempre più informazioni sul ritorno stanno giungendo su Gaia. Molte anime fanno esperienza e raccontano le loro storie. C'è chi le riceve con il cuore aperto, e chi le rifiuta attraverso il razionale. La cosa più importante è non chiudersi. Pim ascoltava attento. Dopo un lungo silenzio, disse, quello che dite mi piace, e certamente mi sarà di aiuto quando verrà il mio turno di tornare. Penso però che chi rimane soffre, non è vero? Quando chi amiamo torna in cielo, rispose Alia, dobbiamo realizzare che è semplicemente un distacco fisico. Ma è vero che quel distacco è fonte di grandi cambiamenti interiori. C'è un momento di transizione, durante il quale ci viene chiesto di stabilire un nuovo equilibrio con noi stessi e con la realtà fisica in cui viviamo. Il distacco da chi amiamo ci offre la possibilità di accogliere nel nostro cuore il dolore, che è una forza che ci trasforma, aggiunse Kim. Quando questo avviene, scopriamo quello che davvero conta nella vita, lasciando andare le mille piccole cose a cui davamo tanta importanza. Tutto quello che avete detto mi piace e mi dà un grande conforto, disse Pim, anche se sento ancora l'agitazione e il dubbio della mia mente razionale. Nel tuo cuore un seme c'è, crescerà, è dentro te. Sento pance brontolare. Forse è ora di mangiare. Pim e i nipoti accolsero volentieri l'invito della casa e diedero l'assalto al castagnaccio, che era ancora tiepido e si scioglieva il bocca, sprigionando un sapore dolce con un piacevole retrogusto amarognolo. Mi sembrate soddisfatti, se leccate anche i piatti. Pim era stato colto sul fatto. Sorrise e scoprì di non essere affatto imbarazzato. Poi ascoltò il canto della casa. Il ritorno vuoi capire? Io qualcosa posso dire. Se tu giochi a immaginare, un'idea te la puoi fare. Pensa al sole che tramonta, non ne vedi più l'impronta. Non vuol dire che è sparito, segue solo il suo spartito. Ora illumina altre sedi, anche se tu non lo vedi. Tornerà, nascerà ancora, annunciato dall'aurora. Il tuo spirito ed il sole, fanno tutti e due capriole. E nel loro girotondo, portan gioia tutti intorno. Alia e Kim annuirono. È proprio bello averti qui con noi, e ora sai che puoi venirci a trovare quando ne hai voglia. Siamo a un pensiero di distanza. Ma la tua missione è su Gaia. È lì che hai scelto di fare esperienza in questa vita per espanderti. Sei pronto a tornare? Penso di sì, rispose Pim, anche se qui è bellissimo. Mi mancherete tanto, e certamente mi mancherà questa casa, così accogliente, piena di sorprese, e di deliziosi manicaretti. Mi riesce difficile salutarvi. Sento che la commozione mi sta facendo piangere. Anche noi abbiamo le lacrime agli occhi, sussurrò Kim, ma penso che non dobbiamo preoccuparci troppo. Abbiamo la scusa di essere tre vecchietti, e alla nostra età piangere fa bene al cuore. E non dimenticare, aggiunse Alia, che sei un gran bravo aviatore e puoi sempre tornare a trovarci. Le immagini cominciarono a perdere consistenza. Pim sentì che una voce gli entrava nel cuore. Un coro, molto leggero, delicato, soffuso. Una cosa non scordare. Amati, ama, e lasciati amare. Fidati e affidati sia la tua guida, ma sempre tu a giocare la partita. Sei protetto, sei guidato, sei infinitamente amato. Che bel saluto. Lo porterò con me e sarà la mia bussola. Grazie Alia. Grazie Kim. E grazie casa. Pim si svegliò. Ripensò al sogno e sorrise. Si alzò con quella bellissima sensazione, e andò incontro alla vita.